io non passo con il tempo ancora su una base a dirvi ciò che sento e ciò che penso. C'è chi passa la giornata a prepararsi solo per la prossima serata, c'è chi aspetta la sua amata e vive di ricordi anche se lei non c'è mai stata. Lei non c'è mai stata. Io non lo so come vivo, ma lascio frammenti di me in ciò che scrivo. E no che non mi fermo, destinazione paradiso fra. Però da qua si parte per l'inferno. Da quando ho ascoltato il primo pezzo hip hop, che sogno di salire sul palco e dirvi come sto. E non ascolto critiche perché sono solo chi vive di emozioni e sempre fuori dal coro. Proprio non ci siamo come quando da ragazzino urlavo. Se non sono come loro e non chiedetemi perché faccio questo, perché ho qualche fratello e non me ne frega un cazzo del resto. E se ogni tanto non riesco, lo sai che cosa faccio? Esco e scrivo un altro testo fra. Mi sembra di non conoscere una persona vera, per questo chiudo un ciclo di vita ogni sera. Ma non vedo un progresso e gira e rigira la mira su me stesso. Un bersaglio che non sfugge, vulnerabile come un fantasma instabile che tu sussurra nell'orecchio. Guarda nello specchio ma non c'è la figura. E quanto cazzo dura questa malattia di merda da cui non trovo cura. La luce rassicura ma fino a un certo punto. Croci sulla schiena, non sai quante ne conto. In questa selva oscura farò anche più attenzione, eppure sono chiuso in questa merda di immaginazione. Vivo dentro una prigione, caffè, rabbia, colazione, in mezzo ad animali dipendenti dalla cura ma fatti fuori dagli effetti collaterali. Hear your heartbeat, beat a friendly pace. It's not even 7 a.m. E questa era la cura. Hear your heartbeat, cura o malattia. Leggimi dentro EP 2013. Questa malattia di merda da cui non trovo cura. In questa malattia di merda da cui non trovo cura. Hear your heartbeat, beat a friendly pace. It's not even 7.